Abbiamo deciso di scioperare per rendere alla pietra pubblica evidente un problema, il problema del licenziamento di più di 50.000 extra, 6.000 addirittura assunte di ruolo hanno superato l'anno di prova, altre precarie che da anni insegnano nelle nostre scuole e incredibilmente di fronte a una sentenza sbagliata della giunta plenaria, sbagliata perché il Consiglio di Stato dopo 7 volte che con sentenza passata in giudicato aveva ammesso queste persone nelle graduatorie dichiarando il titolo valido anche per essere assunti, soltanto ci ha ripensato e dice che questo titolo delle nostre maestre di prima posizione conseguito nel 2022 è valido solo per fare il supplente ma non per entrare nei ruoli, e questo non è vero perché la maggior parte delle nostre maestre di ruoli in Italia ha proprio il titolo del diploma magistrale. La possibilità di insegnare per chi è appunto del diploma magistrale era consentita, insomma c'era questa possibilità? Sì, ma ancora oggi c'è, cioè, paradosso che con chi è ripetuto dopo 7 sentenze che aveva affermato anche il diritto di essere assunti nei ruoli attraverso l'inserimento delle graduatorie di esperimento da cui si assume per il 50% dei posti, ha cambiato idea e ha affermato che il titolo è valido e a distanza non è valido per inserirsi nelle graduatorie. È tutto un paradosso tutto italiano e che comunque deve essere risolto dalla politica. Abbiamo chiesto come anni un decreto legge urgente, abbiamo presentato una forza che risolva la questione una volta per tutte, riaprendo le graduatorie non solo a chi diciamo magistrale ma chiunque abilità, perché qui in questo paese per la prima volta domande e offerta si incrocino, quindi laddove ci siano i posti ci siano le persone che possono insegnare perché hanno il titolo dell'abilitazione valida per l'insegnamento. Quante sono le insegnanti che rischiano di perdere il posto? 50.000. Voi oggi siete stati ricevuti anche al MIUR, giusto? Siamo stati ricevuti al MIUR, ma il MIUR dice che sì, la politica se ne sta interessando, ma sono aspettando un parere dell'avvocatura del Stato sull'esecuzione di questa sentenza e prima di questo parere non sarà sentito di prendere una posizione. E oggi abbiamo dimostrato con questo sciopero, con la chiusura di tutte le scuole delle infanzie e primarie in Italia, che è un problema evidente, migliaia di persone sono scese nelle piazze, abbiamo dimostrato che le scuole senza le nostre maestre non possono andare avanti. E a essere colpiti da questa sentenza potenzialmente ci sono insegnanti che insegnano anche da molti anni. Sì, molti di loro, anche perché specialmente nelle regioni nord del paese, penso Lombardia, Piemonte, Veneto, le graduatorie vecchie sono esaurite, i concorsi sono le composizioni esaurite e quindi da anni sono chiamati a essere assunti nella pubblica amministrazione, in particolare nella scuola. Non è un caso che 6.000 di queste sono addirittura assunti in ruolo con riserva della sentenza di merito, una sentenza di merito che ne sarà negativa e nel frattempo queste persone hanno superato i ruoli, vuol dire che non c'era nessun altro che poteva insegnare a questo loro. E questo è un paradosso tutto italiano, quello che poi porta di fatto ai ricorsi per chiedere la stabilizzazione e il risarcimento per l'abuso dei contratti a termine.